Lo avete sentito nella prima parte di A Bordo Campo. Oggi abbiamo parlato di Roma 2020 e anche dell'importanza strategica che il dialogo tra Israele e Palestina può avere nella corsa olimpica di Roma, visto il contributo dato al riavvicinamento, almeno sotto il piano dello sport, tra queste due realtà, proprio dal presidente del comitato organizzatore e promotore di Roma 2020, Mario Pescante. Ebbene, ancora di Israele e Palestina parliamo col nostro abituale ospite, il presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini. Benvenuto, presidente. Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Presidente, sappiamo che anche il Centro Sportivo Italiano è in campo ormai da diversi anni proprio per favorire il dialogo in Medio Oriente e si sta avvicinando a grandi passi l'appuntamento principale, no, di questa strategia che unisce politica e sport. Sì, direi proprio che è così, cresce l'entusiasmo, siamo, come dire, nelle settimane tra virgolette del prepartita, 21-25 ottobre, queste saranno le date dell'ottava edizione della Maratona Pellegrinaggio da Betlemme a Gerusalemme, un'esperienza davvero unica che appunto per l'ottavo anno consecutivo vedrà correre insieme israeliani, palestinesi, ragazzi italiani provenienti in modo particolare dalle società sportive e dagli oratori del CSI. 8-10 chilometri indimenticabili, si parte dalla piazza di Betlemme, si attraversa tutti insieme il checkpoint per arrivare a Gerusalemme. Un'esperienza davvero unica che dice veramente, concretamente, delle potenzialità educative dello sport come strumento di pace. Sappiamo quanto queste iniziative abbiano un valore simbolico importantissimo, ma sul piano pratico quali sono gli effetti, i risultati che avete raccolto ormai in queste 8 edizioni? Ma intanto devo dire lasciare un segno indelebile nel cuore e nella vita di tutte le persone che hanno partecipato. Anche quest'anno saranno più di 300 i partecipanti a questa maratona, sembra un numero piccolo, ma per un'esperienza così è un numero grandissimo. Tra parentesi, allarghiamo i confini perché per esempio è molto bello sottolineare la presenza attraverso il contributo della Fondazione Francesca Raba di un gruppo di ragazzi che proviene da Haiti e che sarà accompagnato dal Vescovo di Haiti. E poi, come dire, anno dopo anno cresce sempre di più l'ambizione di questa grande iniziativa. Noi vogliamo davvero fare in modo che questo diventi un appuntamento mondiale per sottolineare l'importanza dello sport come strumento di pace. E appunto stiamo già lavorando all'edizione del prossimo anno perché diventi davvero una grande occasione a livello mondiale per parlare di pace attraverso lo sport. Benissimo, presidente Massimo Achini del Centro Sportivo Italiano. E allora in bocca al lupo per la Corsa della Pace 2011 e chiaramente l'aspettiamo a bordo campo per commentare gli esiti di questa splendida iniziativa. Con immenso piacere e grazie a voi per la possibilità di segnalare questa iniziativa così bella.